invito all'orgia ben pagata e retribuita da premiarsi dopo un parlamento. Ho incontrato un nano alla stazione senza denti, ma per il suo lavoro era meglio. Lo invito a casa mia a farmi compagnia, e in mezzo a tutte quelle squadrine della via mi salta nella mente di farlo presidente. Quando fu eletto io ero ormai vecchio e sedevo nel mio bagno privato, e allora rimpiansi di essere nato, perché lui, il nano, senza voltarsi se n'era andato. E allora presi tutti i nostri bei filmetti e li spedì in questura, quella della stazione, ma mi saltò di mente che lui era il presidente. Ora ha una dentiera per sorridere, sorride dalla mia pubblicità.